Chissà se Luca l'aveva mai sentita questa vocina di Craig. Voce soave. Io ero quando Comunque, ancora usavate. benvenuti. E, come sentite la mia voce è normale, mi scuso per la scorsa settimana che è stata abbastanza. Ho riascoltato la puntata ed è stata abbastanza morti. Puntata numero Jacopo 49. Oh, sì, 49,50, fammi controllare. 49, 49, so che al primo, indovina con uno. Allora, in questo episodio lo registriamo io, come al solito, Jacopo che avete già sentito, Andrea che non sentirete. Sempre le pause d'effetto, mai una Ci ho volta. provato. Roberta forse arriverà, ma non si sa se il coronavo ha colpito, e però abbiamo obbligato un ospite che è Luca a aiutarci. Ben ritrovati. Ben Ben ritrovati. Molto ritrovato bello, me, mi diciamo. piace. Ben ritrovato tu. Ben ritrovato. Adesso io potrei essere distratto perché stasera ci sarà un big announcement del primo ministro danese su come dobbiamo morire nei prossimi giorni. Però in realtà volevamo parlare in questo episodio. Allora, cogliamo l'occasione della nuova serie di Westworld che esce il 13, mi pare. Oddio! E quindi per noi è tipo dopodomani, per voi è Tipo ieri. ieri. No, forse il 15. Vabbè, comunque. E cogliamo l'occasione appunto per parlare un po' di Westworld e di magari qualche richiamino di fantascienza, perché noi in realtà noi siamo un po' nerd in fondo, un bel po' nerd. Come un po'. Esatto. E allora abbiamo scelto di invitare il più grande esperto di Westworld nel palazzo. Ah, credo scala B penso di essere sì. Vedi? Lo sapevo. E invece abbiamo tipo Andrea che non l'ha visto, immagino. Lo Credo. convinceremo. Lo convinceremo a guardarlo con questo episodio. E niente, dai, immagino che tutti voi sappiate di che cosa si parla, cioè Westworld, dove tutto è concesso, come è tradotto in italiano. Non si sa per quale motivo. Perché hanno dovuto mettere dove tutto è concesso? C'è un doppio senso tipo porno che lì è, non lo so. Non lo so, non ho mai capito questa Westworld, dove cosa. tutto è concesso, Tinto Brass, c'è cioè una roba del genere. Che è una serie TV prodotta dall'HBO, che onestamente non sbaglia una serie, più o meno, Più o però meno. abbastanza valida, e del 2016, che è ancora in produzione, ha avuto un po' di pause perché deve essere abbastanza complicato da girare per le varie scenografie, eccetera. E vabbè, ce lo introduce Luca che non voleva introdurlo, così si parte. No, Va vabbè, bene. faccio Vuoi io, fare tu? No, dai, no, se no devo faccio io. aprire Wikipedia. Vabbè, vai, vai. Ma che apri Wikipedia? Praticamente è un film, è Che una ne serie so, fai TV. l'anagrafica di solito, la sai Ma fare tu. va, che è una serie TV di fantascienza tratta da un omonimo romanzo del 73, no, da un omonimo film del 73. Forse però era anche un romanzo, non mi ricordo. Credo che sia basato su una storia, ma non mi ricordo. Sì, comunque, diciamo, la cosa famosa era sto film degli 70 anni 70 che era. Esattamente. Che si ispira più o meno liberamente. Mi pare che la prima stagione sia abbastanza vicina, mentre la seconda. Io onestamente non ho mai visto il film, quindi potrei dire No, anche neanch'io. Il cazzate, ma film era tipo tanto. Terminator. Cioè, non era molto. Non era molto vicino a questa storia, diciamo. No, beh, alla storia in generale forse sì. No, era più il setting, diciamo, e alcuni riferimenti visivi che la storia stessa. Cioè, era molto semplice. Sapete la puntata dei Simpson dove vanno Non al guardo i Simpson. parco di Grattacheque Fichetto? Non guardo i Simpson. Affanculo, Sal. Quella puntata lì, comunque, dove a un certo punto i pupazzi impazziscono e cominciano a uccidere le persone. Spoiler. No, vabbè, No, ci questo è sta. il film. La serie TV. Allora, la Spoiler. serie TV appunto parla di un parco a tema, in un futuro più o meno prossimo, in cui sono stati ficcati dentro degli androidi in tutto per tutto simili a persone, che rispondono più o meno bene alle domande, con una sorta di più o meno bella intelligenza artificiale all'interno, e hanno diverse trame tra di loro, quindi ci sono diverse attrazioni, tra virgolette. E il tema del parco è western, ma ci sono anche poi altri parchi che vediamo, si vedono nella seconda stagione e anche alla fine della prima probabilmente. E il tema principale è la storia appunto si basa su i personaggi che entrano, alcuni personaggi che entrano nel, alcune persone che entrano nel parco e fanno più o meno cose, e anche su il creatore del parco e gli stessi androidi nel parco. Ed è la prima stagione è un pippone su l'io e l'intelligenza artificiale e la coscienza. E... cioè, comunque Sallo, come riduci tu le cose? Cioè... Sono morto. Vabbè. E beh, puoi dire che non è vero? Sergio a dire... Puoi forse negarmi questa cosa. Vabbè, ok. Ok, parliamo un attimo anche del cast, che secondo me è notevole, perché nel cast abbiamo un miscuglio di persone più o meno famose, di persone che ora sono famosissime. E, c'è la già citata Evan Rachel Wood, che è la protagonista forse, una delle protagoniste, che dove l'avevano citata? Mi ricordo. Oddio, sì, c'era un'altra roba, adesso mi sfugge. Porca vacca. Vabbè, non è importante. C'è Tandy Newton, che anche lei ha fatto una roba super famosa, che non mi ricordo che cazzo è. A parte lei ha fatto un macello di roba, tipo sì. Mission Impossible 2. Esatto, Mission Impossible 2, bravo. Lei è ovunque. Vabbè, è solo che non citiamo. Insomma, è abbastanza famosa, lei era già abbastanza famosa. C'è Jeffrey Wright, che anche lui è abbastanza famoso. Comunque è tutta gente che ha fatto serie TV prima e una vagonata di altri ruoli minori e non da protagonisti in film. C'è un Hemsworth, così per gradire. Esatto, e poi ci chi, sono... Chi Hemsworth? Luke Hemsworth. Hemsworth. Fratello minore. Il fratello di fisso film Chris. Ah, lol. Sì. Ok. Che è quello che fa la guardia, sì, il capo della guardia del parco, che potrebbe o non potrebbe essere un android. E spoiler. E... c'è un bellissimo Jimmy Simpson, che è spettacolare, incredibile. Vero. Che... e basta. E poi ci sono anche gli attori invece veramente famosi. Vabbè, Tessa Thompson è famosa adesso perché ha fatto tutte le minchiate con... E gli attori veramente famosi che sono Anthony Hopkins e Ed Harris, che vabbè, sono due giganti. Esatto. E niente, è una serie abbastanza, sono 10 episodi sono 10 episodi nelle prime due stagioni e no, aspetta, sono 10 episodi per stagione. Ah, okay. Stagioni e entrambe le stagioni sono monotematiche. E questa sarà l'unica parola sapio che dirò in questa puntata. Nel senso che appunto la prima è un pippone enorme sulla coscienza e la seconda è un pippone enorme su, non mi ricordo. Non si può dire, spoiler. Spoiler. Facciamo un momento in cui diciamo che spoileriamo, perché sennò non possiamo dire un cazzo. Allora. No, quello volevo chiedere. Cosa, com'è? Facciamo che adesso diciamo un po' in generale senza entrare nei dettagli, e poi a un certo punto diciamo andatevela a vedere. Secondo me no. Allora, se non avete visto questo, andatevela a vedere. Se Andrea non vuole sentire spoiler, vabbè, si tolga, non so. A parte che c'è Andrea. Ehi, Andrea. Buonasera. sì, io vorrei vederlo, però okay, allora mi interessano gli spoiler, quindi... No. Lo so. Questa è una di quelle serie TV in cui gli spoiler sono... cioè, i colpi di scena sono importanti ai fini della trama. Quindi notare, va bene, mi muto. Quindi non faremo spoiler e parleremo un po' in generale della stagione, parleremo un po' in generale, io voglio dire altre due robe prima di coso, e poi a una certa liberiamo Luca... lui comincia a parlarci di spoiler. C'è una domanda, ma i personaggi, diciamo, quelli finti, cioè nel senso i robot, gli androidi nella serie sono attori, sì, oppure sì, sono attori. Sì, sì, sì, perché sì, l'idea è che appunto gli androidi siano così uguali agli esseri umani che alla fine tu vai a farti la tua vacanza nel West, fai il cazzo che ti pare, cioè puoi anche sparargli in bocca, puoi stuprarli, puoi fare quello che vuoi, e ti sembra davvero di uccidere una persona o stuprare una persona, e questo piace alla gente. E non è che sto parlando alla me, è veramente così la storia. È davvero, sì, è davvero questa volta non era salizzato. Ho capito. E quindi ti sembra di farlo davvero, e la gente paga un pacco di soldi perché appunto ama fare queste cose. Esatto, è un parco più per ricchi. Sì, e l'idea è appunto quella. Tra l'altro non abbiamo citato Bad Barnes, che fa un bellissimo ruolo in questa serie e avrà un bellissimo ruolo dopo in, scusami, in chi? Una bellissima serie TV. Barnes, che cazzo si chiama? Barnes. Ben Barnes, quello di The Punisher. Barnes. Oddio, sì, bellissima, bellissima, è vero, sì, ok, ho capito chi è. Hai capito chi è? Sì. Vabbè, è abbastanza importante, più che altro. E niente. Simpatico. E appunto dicevo Andrea che sono tutti attori, non c'è le minchiate tipo Star Wars C3PO8. Ah sì sì, non è che immagini... L'idea di base è appunto quella, cioè nel senso che loro sono così simili agli esseri umani e da sembrare esseri umani. No, dicevo, sì, non android, cioè tipo appunto, no, cioè proprio mai rifatto il computer completamente. No, sono reali, sono proprio persone. Okay. Sono alcune scene dove vedi che alcuni di loro hanno ancora, diciamo, le robe interne meccaniche. Sì, li aprono, li chiudono, li fanno. Però la maggior parte di loro sono proprio uguali anche, cioè, fisiologicamente, proprio... Sono certo. Le scene fighe dove li montano, che sono spettacolari. Va bene, dai. Allora, no, secondo me ce la facciamo a dire robe senza spoiler, non c'è il problema, non c'è bisogno... Cioè, tanto... Almeno quello che volevo dire, poi vi lascio parlare, è che la seconda stagione non mi è piaciuta così tanto come la prima, e perché il pippone in generale mi ha un po' annoiato. E la prima invece è un tema classico della fantascienza, perché non è niente di che, cioè non è niente di originale. Però è trattato in un modo molto figo, e in realtà è molto figo anche come è stata girata, anche l'interpretazione degli attori, e gli effetti che ci sono, i colpi di scena, eccetera. E per cui alla fine è sì simile a una cosa che potrebbe essere Blade Runner, però comunque gli rende giustizia, non al film, ma anche proprio al libro, al romanzo di Dick. Sì, alla fantascienza in generale. Esatto, perché io sono un po' un appassionato di Dick, e quindi vedo la fantascienza come l'apoteosi, la fantascienza come i libri di Dick. E in effetti questa serie TV, anche col fatto che ci sono un sacco di colpi di scena, un sacco di inversioni, eccetera, eccetera, di... dirò un'altra parola sapio? No, non la dico. Dai, non c'è Roberta ancora, puoi dirlo. No, non la dico. È molto simile a il tipo di scrittura di Philip Dick, e quindi la prima stagione almeno mi è piaciuta veramente tanto. La seconda un po' meno, ma comunque notevole. E ora vi posso lasciar parlare. Comunque volevo dire straniamento. Straniamento. Oh. E con questa bellissima parola, Luca Oddis. Allora, vabbè, mi hanno chiamato perché... adesso mi rifaccio perché mancava uno, perché c'è un assente, esatto, c'è un assente, quindi proverò a fare il più sabbio possibile, però io penso, cioè rifacendomi a quello che ha appena detto Salla, penso che la prima stagione di Westworld sia, cioè, per me è la più bella stagione di serie TV che ho visto, quindi capite che mi possa, cioè, possa essere di parte in questa discussione. Allora, di cosa posso parlare? Allora, secondo me, cioè, nel senso, a me piace perché essenzialmente difficilmente ho visto delle serie che sono riuscite a mettere assieme la parte di intrattenimento, la parte di filosofia che c'è sotto e anche una buona fattura a livello tecnico, che, cioè, che coincidessero così. Io nella prima stagione sicuramente l'ho visto, vabbè, anche nella seconda non è che dico sia una merda, nel senso, sì, e nella parte tecnica intendo tutto, scrittura. Ah, ecco, Sala, forse l'hai detto che l'ideatore Jonathan Nolan all'inizio... No, non l'ho detto perché non faccio il fanboy di Nolan. Esatto, io lo faccio, quindi... È un Nolan, senso, dai, personalmente, non è ogni volta... Nolan. No, personalmente lui, il fratello, ogni volta che caga, comunque la cagata è... la trovo... dorata, piacevole, deliziosa. Cioè, ma non è che si chiama Nolan lui, allora è bravo. No, cioè, ho detto è fratello. Lui fratello. È come di voi, perché si chiama Maradona, uno sa giocare a calcio. Cioè, non è... Però molte cose che Christopher Nolan ha fatto le ha fatte comunque con lui. Quindi... No, è vero, cioè, quando lavora con lui... Memento con... l'ha scritto assieme, ed è... Cioè, sì, sì, ma anche The Prestige, che noi abbiamo... di cui noi abbiamo, sì, parlato. Cioè... Diciamo che spesso il fratello è bravo con le sceneggiature, è vero. Beh, spesso. E quindi, sì, no, vabbè, a parte questo mega pippone, ecco, no, magari una cosa. Per chi vuole andare a vedere la serie che non ha ancora vista, un consiglio è fare caso ai sogni delle o persone o droidi, poi dovete capire chi è chi, perché sono abbastanza significativi, perché essenzialmente vabbè, anche nel secondo me nel il tema, come diceva Salla, è un po' se qualcosa che tu crei possa avere più o meno un'umanità, un'autocoscienza o qualcosa, questo, vabbè, diciamo, sì, è anche possiamo, è molto almeno fun, dirlo, sì, sulla definizione di coscienza. E quindi puoi dire che uno ha una coscienza, che una coscienza. Qualcosa ha una coscienza. Questa è una cosa magari a cui fare caso, secondo me. Dire. Sì, che appunto non è che sia la roba così incredibile, innovativa, però è trattata molto bene. Cioè, diciamo che tra questo e Blade Runner, anzi no, tra questo e anche gli androidi sognano pecore elettriche, non c'è differenza. È una bella storia. Su questo comunque effettivamente dico quello che ho detto anche a Edoardo e Federico quando li ho costretti a vederlo. Ah, Westworld. Perché è un po' come Blade Runner, nel senso che Blade Runner è, penso, uno dei film più lenti, più, cioè, difficili da non addormentarsi a guardarlo. Quello dicevo, Il cacciatore di androidi, perché il libro è molto più corto del film, cioè è molto più snello. E... Sì, esatto, cioè, arriva al punto più velocemente, diciamo. E Westworld, secondo me, ha un po' lo stesso problema, che ci mette un po' ad arrivare al punto. Quindi, diciamo, prima dell'episodio 6-7... la storia ti sembra un po', dici, ma che cazzo mi serve vedere sta scena? Poi una volta che arrivi anche al punto... perché molte sono ripetute. Esatto. Una volta che però arrivi al punto, capisci anche il motivo della ripetizione, capisci... Oddio. Attenzione! Arriva in corso d'opera. Buonasera. Oddio. Abbassa il volume. Ciao. Ciao Rob. Abbiamo già mezzo cominciato, ma come va? Vabbè, dopo parleremo di cruci e cose personali. Ora bisogna parlare di fantascienza. Ciao Ro, mi sono imbucato. E niente. Non l'ho presa bene, mi pare. L'ho presa un po' male. Reazioni un po' dilatate, tempi di reazione dilatati. Comunque, nel frattempo che Roberta si riprende da questa sorpresa, questo ospite a sorpresa, no, cioè, vi invito, se avete intenzione di guardarla, a resistere se alcune scene sembrano ripetute, o come ha detto Luca, cioè sembrano, cioè magari solo dei sogni, così, perché sono importanti e perché poi arriva, diciamo, una... Anche perché hai visto che ci sono tipo 500 trame una sopra l'altra, e cioè 500 personaggi, ognuno ha la sua storia, eccetera. E la prima puntata è solo un intro di cose a caso, quindi è difficile da seguire. No, però anche tipo la puntata 3 c'è un dialogo, o 4, non mi ricordo, c'è un dialogo fra Ford, che sarebbe Anthony Hopkins, che è il creatore del parco, e la tizia, la manager, diciamo, la direttrice. E quella scena dura pochissimo, sono tipo 8 minuti o 6 minuti, ma c'è un video su internet di un tizio che l'ha analizzato e che ha analizzato le espressioni che fa Anthony Hopkins mentre recita in quella scena, ed è strapiena di dettagli, di cose che poi hanno senso di... Cioè, sì, da rivedere una seconda volta, diciamo. Sì, è una di quelle serie, esatto. Scusa, ma per uno che non l'ha vista, cioè nel senso... cioè, perché uno dovrebbe, appunto... cosa in più rispetto a tutte le serie barra film, cioè sull'intelligenza artificiale, che, cioè, è a fatta quando avete detto ora, è la solita roba. No, è fatta... Almeno io non ho visto un film o una serie TV con questo tipo di fattura. Assolutamente, sì, infatti. Poi, di libri sì, ma di film no. Sì. Cioè, tra questo e Io Robot stiamo parlando di asilo nido, università. Sì. Cioè... Occhiolino. Occhiolino. Ex Machina. Ecco, bravo, Ex Machina. Questo è meno thriller, cioè meno thriller horror di Ex Machina. Ma, oddio, è uscita Roberto, ci ha abbandonato Roberto. Si è offesa. Si è offesa per il tuo commento. Sì. Ex Machina. Non è. No, ragazzi, ci sono troppe cose da dire su Westworld, merda. Ma questa è una puntata lunga. Merda, possiamo fare una puntata lunga, Salla, per favore? A consigliare. Allora, in post taglio tutto quello che avete detto voi, lascio che lo faccio io. No, penso lascio che... la parola a voi. Riproviamo? Riproviamo, Roberta, ci sei? Pronto? No. Forse lei ci sente, ma noi non sentiamo lei stavolta. Ma forse è un problema di Craig. Aspetta, provo a uscire e rientrare, poi riprendiamo. Allora, chi risponde a questa domanda interessante di Andrea? C'è un bel zombie in stanza. Mentre Luca ascolta il discorso di Conte, io cerco di tradurre quello del ministro danese in danese e il secondo danese, è un problema. Sentiamo Jacopo che risponde alla domanda di Andrea. Perché Westworld e non... Devo fare un recap perché ho interrotto, non so se si sentirà nella registrazione. Metterò una musichetta tipo... Esatto. La musichetta di Westworld, così ci... Coronavo. A casa. Esatto, coronavo. Jacopo. Allora, se non sbaglio Andrea aveva chiesto perché Westworld e non Ex Machina o Blade Runner o sta roba qua. Vaffanculo Andrea, guarda... Allora... Ho chiesto cosa in più rispetto agli altri film, serie TV di intelligenza artificiale, ma non diciamo solo che è fatto meglio, è proprio a livello di trama, di, non so, di... vabbè, hai capito. Ho capito, sì. Diciamo che molti telefilm e film, soprattutto quelli un po' più vecchi, hanno come difetto, cioè che in realtà non è un difetto, più una conseguenza del fatto che sono vecchi, una filosofia un po' più, secondo me... cioè è stata un po' superata come visione del mondo, quella già futurista, già abbastanza avanzata di Asimov e di Dick anche. Oddio, quella di Dick un po' di meno. E quindi, diciamo, dalla sua Westworld c'ha che la base filosofica è più moderna, cioè è un po' più materialista, un po' meno spirituale, e anche i personaggi sono un pochino più studiati meglio, sia in funzione della trama che proprio come personaggi, secondo me, sono molto più interessanti rispetto ad altri film. Ok. Anche le motivazioni, per quanto possano, cioè per quanto siano un po', come dire, difficili da capire, comunque le senti, cioè riesci a sentire anche grazie agli attori. E poi sono le tette e il sangue, perché la HBO, quindi pieno, sì, di tette. HBO ha bisogno di un certo numero di tette, da... Qui è un po' quello che diceva prima Luca, alla fine. Sei soddisfatto? Sì. No. Cioè, senza spoilare è difficile dirti. Però no, vabbè. È abbastanza migliorata per come va a fondo a certe tematiche, per come le sviluppa anche... Sì, è parecchio profonda. È anche... Allora... In realtà tu puoi vederci anche solo tette e gente che viene violentata, però ci sono parecchie cose che ti fa... cioè non è solo, è una roba che ti fa anche, cioè ti invita anche a riflettere te stesso al di fuori della serie TV. Esatto. Ed è una roba che tipo gente pigra tipo me, a che guarda solo film di merda, non farebbe, invece con questa ha fatto volentieri. Ok. Sì, scivola bene, diciamo. Poi sì, è più... È quel tipo di fantascienza che più parla più dell'umanità che no, di, cioè, parlando di sti robot, alla fine parla di umanità, di coscienza, eccetera. Cioè, è un po' come The Good Place in un certo senso, perché ti fa digerire bene tematiche molto pesanti. Perché non siamo nel tuo podcast, non è che puoi mettere le marchette, ti pare. Dopo una il gioco, però tante di quelle marchette, Salla, che porco due ti sommergerò. E soprattutto una cosa che ha in più rispetto ai film vecchi è che nel frattempo sono usciti videogiochi tipo Bioshock e Red Dead Redemption, a cui si sono ispirati. Cioè, Nolan e la tizia, non mi ricordo l'altra tizia. La tizia è Lisa Joy ed è famosa per avere coprodotto Pushing Daisies, quindi io adesso... Attenzione! Sì, Pushing Daisies, per chi non lo sapesse, è quella serie TV incredibile, un po' da donne forse, con il padre di Legolas. Fantastico. Padre di Legolas. Sì, è il padre di Legolas. Ah, Tranduil. Ronan. Allora perché non dire Ronan? Ronan. No, è più figo dire il padre di Legolas. No. So. È molto più fashion con gli occhiali Ray-Ban a strisce. Comunque, sì, cioè, in una conferenza stampa, non mi ricordo, forse in un'intervista, hanno proprio detto... che sia Lisa Joy che Nolan sono ispirati molto a quei videogiochi, a come hanno quei giochi hanno parlato della scelta, cioè della filosofia dell'etica di una persona che ha una scelta, che ha una possibile interazione con una narrativa, che ovviamente è un tema molto bello potente in una serie su sta roba di androidi e parchi e violenza. E tette. Okay. E tette. E Ed Harris. Nemico alle porte. Merda, no, c'è troppa roba da dire su questo. Posso aggiungere solo una cosa super rapida? Devi. Cioè, beh, è solo una pillolina. Cioè, nel senso, il fatto di queste cose che dicevano che ti fanno pensare... Primo... cioè non è la cosa tipo che c'è la frase che tu dici bella, questa me la metto su Facebook oggi, ci metto la foto di me col culo da fuori, è bella, no, è poi una cosa che, come ha detto Salla, ti fa davvero riflettere. E secondo, quando vengono fatte le domande esistenziali o perché appunto il collegamento è cioè se tu ti chiedi come fa un androide ad essere, cioè, come faccio a dire se è un androide, se è più umano o qualcosa, ti chiedi quindi cosa vuol dire essere un essere pensante, cosciente, lo rifletti su di te, diciamo. E certe volte ci sta Ford, che è il, come lo spieghiamo, è il colui che ha progettato è il dio del esatto. Vabbè, è uno dei creatori del parco. È uno dei creatori del parco, e che risponde a queste domande. E sono delle cose che, cioè, diciamo, vere, diciamo, però delle belle mazzate, e risponde. Non hai capito che lasciano la cosa, dicono: ah sì, ma forse è Dio, forse è questo, forse è colà. No, ti risponde come la pensa, capito? Esatto, non fanno come Lost che ti fanno 200 domande. Ah sì, ma forse questa cosa. In realtà mi è piaciuto, quindi non so perché mi sto lamentando. Però sì, cioè il personaggio di Ford, che in alcuni momenti ha dato delle risposte a domande che io mi sto facendo da tipo 20 anni. E ti ha dato risposte davvero? Non è che forse tu sei un androide? Oh mio Dio! Ah, Iago! Non sapevo che fosse... sì, cioè, da delle risposte che... messe nel contesto della persona a cui le sta dicendo. Merda, Andrea, ma basta, vai a vedere la serie, così. Cioè, e porca puttana, cioè, che cazzo si fa ancora qua? Non ti abbiamo messo ancora la hype. Cioè, mi sono messo l'hype da solo, me ne vedrei sette volte. Ho sentito una voce di Roberta. Ciao! Oh mio Dio! Oddio, sì. È arrivata. Sono arrivata. Ce l'ha fatta. Ma voi dite che Craig sta registrando anche lei in questo momento? Ah boh, sì, dai. Magari ha fatto di mettere l'audio in sync con gli altri, tipo spostarlo. Va bene. Ciao, Roberta. Ciao. E, avevamo cominciato a parlare da un bel po', in realtà, di fantascienza e di Westworld in particolare. Ok, vai, vai. E abbiamo convinto Andrea a guardarlo. Ora Jacopo, anzi ora Luca brevemente convincerà anche tu, anzi Andrea brevemente convincerà. La quarantena finisce lunedì, però diciamo che da qui, visto che non si può uscire né fare cose, quindi... E poi guardare Andrea, allora, abbiamo infettato te, ora infetta Roberta, vai. Ma non mi avete convinto poi così, così... Oh, ma sono io che infetto voi. Allora vattene sotto. No, mannaggia. A posto, convinta. Già la sento, Roberta, che con questa tosse... Ma qui sono più non corona che i corona, quindi io sono più corona che non corona, quindi... Madonna. Comunque sì, per riassumere quello che abbiamo detto finora di questo da Roberta, il dialogo finale di Blade Runner, però fatto in 10 ore... E fatto meglio. Ah, yeah, ma bene. Quando abbiamo messo pausa stavi iniziando un discorso su Ex Machina, poi sei... Ah no, era per di... Come lo trigger? A me è piaciuto Ex Machina, però... No, infatti, anche a me. Ma che cos'è Ex Machina? Luca Oddis. Luca, come devia la responsabilità di Ex Machina? Ti banniamo subito da... Ah, ma è quello che abbiamo visto al Cineforum. Esatto. Perché dovete sapere che qui... Esatto, Luca Oddis ha organizzato un Cineforum tempo addietro, nei tempi pre-coronavirus. 2 stagioni e mezzo, diciamo. E uno di questi film del Cineforum era Ex Machina. Esatto. È vero. E tutti l'hanno insultato perché... è un cane, Luca Oddis. Sceglie film con finali brutti. Che non piacciono. E... No, vabbè. Fai un Cineforum? No, ormai è finito, siamo... E perché non partecipi a questo podcast? Ma, scusa, sarò stato in tipo 6 episodi. Forse un po' di meno. È uno degli ospiti più... reduci. No, ospiti. No, era per dire che... Tra l'altro anche Blade Runner l'hai visto lui nel Cineforum. Sì, purtroppo. Sì. Prima. Anche quello odiato. Ma dagli altri, a me no. Sì, dal resto del pubblico. Dal popolino. Subito, giusto? Roberta con il commento snob, sapio. Comunque sì, Ex Machina, diciamo, ha meno, secondo me, è meno incentrato su queste tematiche, le tratta in maniera molto più sottile, è molto più un thriller horror su la sessualità, su potere, su tante cose, tante altre cose anche. E questo, cioè, Westworld è un po' più chiaro, un po' più diretto, ma anche più profondo, c'è anche più tempo effettivamente di parlare di queste cose. Beh sì, certo, cioè credo che il formato serie da 10 episodi sia giusto poi per... E, boh, la seconda stagione sì, anche a me non l'ha fatto impazzire, però ci sono un paio di episodi che scavano molto a fondo su dei personaggi e sono molto interessanti e diciamo hanno introdotto delle cose che sono un po' delle conseguenze di quello che avevano detto nella prima e boh, alla fine ci sta, non è sto granché, però vabbè. Cioè rispetto alla prima intendo, poi ovviamente è stellare tutto. Raga, io mi stavo chiedendo una cosa che non c'entra un cazzo in realtà, perché mi sono un po' distratto con sta cosa della Danimarca e delle cose stupide. E, pare, perché allora, come dicevo, io sono ho un'attrazione omoerotica per Philip Dick. Mm-hmm. E già il nome in realtà è ispirato. Esatto. No. I love Dick, Sal. Esattamente. I love Dick. Però devo dire che tutti i film tratti da romanzi di Dick mi hanno fatto cagare. Praticamente. Ma come? Anche Blade Runner nuovo? Non ho visto Blade Runner nuovo. E non ho visto neanche The Man in the High Castle, però mi hanno detto che è molto diverso. Però ecco, ci sono dei film abbastanza imbarazzanti, tipo Next, per dire. Oddio! Qua abbiamo perso un ascoltatore. Imbarazzante, è vero. E cos'è qua Next? Abbiamo perso un ascoltatore. Che è... Next, Nicolas Cage, Luca. Attenzione. Oh mio! E però... volevano fare un film tratto da Ubik, che è forse uno dei libri più fichi. Oh mio Dio. Sala, ma consigliate, l'ho letto. Dammelo tutto. Dammelo tutto, cazzo. È forse The Truman Show assomiglia un po', è abbastanza bella come interpretazione di una roba di Dick. Sì, ma non c'entra, cioè... Non c'entra moltissimo, però è liberamente ispirata, ci può stare, dai. Però io mi chiedevo, come, cioè... Ah, Scanner Darkly, Salla, è praticamente il libro, a parte un paio di scene. Non l'ho visto. È molto figo. Ma c'è coso? C'è Keanu. Esatto. Vabbè, però se mi dici che assomiglia molto... No, è uguale al libro, a parte due scene che secondo me erano tagliate, ma sono le più belle del libro. Ah, bene, ecco, appunto. Cioè, allora, c'è una scena, vi dico solo sta scena, nel libro c'è una scena dove c'hanno una tizia in casa che tipo comincia a urlare, quelli vanno sopra e dicono che succede? C'è una ribellula. E quelli cioè, sbottano a ridere, ma perché? Cioè, è innocua, cioè questa anzi ti aiuta, ti ammazza le zanzare. E lei risponde, ah, ma se avessi saputo che è innocua che l'avevo uccisa io stessa. E quelli rimangono, cioè è tipo una scena... che sembra inutile, ma rimangono tipo traumatizzati da sta frase per tutto il resto del libro. E nel film l'ho tagliata, ancora non mi capacito. Comunque, ma no, niente, mi piacerebbe molto un libro su, cioè un film su Ubik, ma ho un po' paura. E si vociferava che l'avrebbero fatto, però non l'hanno fatto. E niente, sono un po' triste, basta. Fine. È una storia triste questa. Ma quanto tempo fanno? Probabilmente lo fanno. Avevano detto che l'avrebbero fatto nel 2015. Quindi... Ah, ok. Se però deve uscire tipo Torre Nera, mi sa che. Oddio. Oh mio Dio. Comunque. È uscito la Torre Nera. Ecco. Purtroppo. Vabbè, è un bel film. Va bene, abbiamo già parlato. Non è basta! Hai ragione, Andrea. Ritorna ogni tanto. È ciclico comunque, ogni tanto ritorna la Torre Nera. Com'è? Va bene. E volete scatenare l'Oddis? No, dai, non scateniamo Luca Oddis su questo, su Westworld. Anche se magari vuol dire qualcos'altro. No, dai, queste erano le cose... Ok, io ho una domanda per tutti voi. Invece che così faccio lo Jacopo della situazione. A voi piace la fantascienza? E se sì, cosa ci, cioè, perché vi piace, nel senso, cosa ci vedete? Perché la fantascienza può essere intesa in diversi modi, nel senso, c'è la fantascienza d'azione, anche Star Wars è fantascienza, più o meno, più un fantasy, diciamo, anche Star Trek è fantascienza. Però c'è anche la fantascienza tipo ecologista, per dire, che magari parla di temi importanti della società, riferiti a, c'è quella del sul razzismo, c'è questa qui sul filosofico, cioè c'è un tipo di fantascienza che vi piace, se vi piace la fantascienza. Vai Luca, ospite. Prima Roberta, che non ha parlato per niente stasera. Vai. Allora, sì, ti dico, a me piace la fantascienza, e il mio giudizio in realtà è cambiato molto nel tempo, perché fino a, non so, qualche anno fa ti avevo detto no, mi fa schifo, io vedo solo film interessanti, filmati. Guarda, una cosa. Eccetera, eccetera, eccetera. Invece negli ultimi anni sono un po' cresciuta, un po', sai, rivaluti, un po' disgeometrizzi la tua visione del mondo, e penso che la fantascienza in realtà disgeometrizzi la tua visione del mondo. Perché cioè? Ognuno di noi ha una visione del mondo abbastanza geometrizzata, no? Alla veneranda età di 27 anni. E cioè smussi un po' gli angoli, parla, diciamo. Sì, la disgeometrizia è più bella. Cioè, sei diventato una buonista schifosa. No, però, ad esempio, sul tema fantascienza, questo devo ringraziare Jacopo, perché probabilmente se non avessi avuto la sua... aspetta un attimo. Se non mi avessi, come dire, introdotta al mondo della fantascienza, non avrei continuato a schifarla. Penso che sia un buon modo, in realtà, per toccare diverse tematiche... spostandosi però su un piano che non è quello appunto reale, ma è un piano fantascientifico, e questo può paradossalmente, non lo so, aiutare in realtà a ragionare su certe tematiche, perché spaventano meno se le proietti in un mondo che non è il tuo, e anche con un bel, non so, cioè godimento estetico che c'è intorno spesso a un film di fantascienza. Quindi mi stai dicendo che grazie a me se... ok, ho capito. Ma ti ricordi qualcosa in particolare che hai detto, cazzo, sto film... Sì, un film che ho odiato appena l'ho visto, cioè Il pianeta delle scimmie, ma che poi ho rivalutato. Oh mio Dio! Quello che lui fa parte di una roba ecologista e... No, raga, cioè, questo, non sapete, questa frase mi ha svoltato la giornata. No, vabbè, io mi ricordo... Beh, è una grande metafora la fantascienza, però... Cioè, anche bello. Cioè, io adesso mi metto davanti a un film di fantascienza e dico, a volte ho proprio voglia di vederlo, non so come dire. Anche se so che è una grande metafora, però dico, cavoli, tipo io in questi giorni vorrei vedermi un bel film di fantascienza, ma perché in questo momento la realtà intorno a me, e lo dico senza mezzi termini, è veramente orribile, sembra di essere, non so, altro che Will Smith qui. E quindi è un pessimo esempio. Tra l'altro, Will Smith, film incredibile di fantascienza, Principe di Bel Air. No. Meglio Gemini Man. Gemini Man After Earth. Bravo. No, allora mi ricordo che io, tu e Chiara, che è la nostra un'altra amica abbiamo visto un film che si chiama Gattaca, che in realtà io ho scoperto grazie a loro pure, quindi diciamo... Beh, Gattaca è meraviglioso, per dire, secondo me, io l'ho apprezzato tantissimo. Anche scientificamente sbagliato. Molto sbagliato, ma molto figo come concetto, cioè molto fantascientifico, molto... Beh, no, anche V per Vendetta è fantascientifico alla fine. Beh, no? Più o meno, sì. Jude Law, Uma Thurman. Abbiamo fatto una discussione al riguardo l'altro giorno per capire cos'è fantascienza e cosa no, ma forse è troppo... Non lo so. Quindi sì, diciamo, adesso non schifi un bel... non lo so, un bel Gattaca, un bel... Pietra delle scimmie. Si è disconnesso, aspetta. Ci senti? Adesso sì. No, ti volevo chiedere per riprendere il discorso. Quindi adesso, diciamo, non schifi un bel film di fantascienza perché c'ha il vantaggio che è figo magari da vedere perché ha delle belle scenografie interessanti, spazio, scimmie, cose, e ha dei temi tosti perché può nasconderli sotto a un po' di azione, un po' di... Sì, esatto, sotto uno scenario, sotto un bel mantello, non so come dire. Ti dirò, io avrei detto la stessa cosa come risposta inizialmente, perché tipo Babbo ogni tanto lo trascinavo a vedere i film perché non c'avevo nessun altro, andavo tipo io e lui, e mi si addormentava tipo a guarda Matrix, giustamente, perché diceva, beh, Matrix esplosione, eccetera. Non mi tocca Matrix, per favore. No, Errond. Dico da questo punto di vista. Matrix, no? Matrix è imbarazzante, soprattutto il 2 e il 3. Senti! Allora. Me lo ammazzo. Vabbè, il primo è molto bello, gli altri, vabbè. Gli altri due sono belli lo stesso, ma un po' di meno, diciamo. Sì. No, però tipo, una volta... è uscito! Se n'è andato. Cazzo, ha mutato il microfono perché sta bestemmiando fortissimo. Si è mutato. Allora, una volta parlavamo, cioè... Babbo, cioè, mi ha chiesto che cosa ci vedi nei film di fantascienza, molto domanda triggerante. E io gli ho preso come esempio Distretto 9... che è un film, cioè, gli ho spiegato alla fine, se lo guardi da fuori sembra un film con alieni, ma se lo vai a vedere è un film che parla dell'apartheid, che parla di... sì, quindi cioè... a tutti voi piace la parte sapio, no? Le spade laser? Cioè, fatemi capire. No, aspetta, stavo dicendo, questa sarebbe stata la mia prima risposta. La seconda è... perché sono le spade laser che sono fighe. Mi sembra che l'hai preparata adesso, però. Un po' copiata questa. Era il discorso la scena di Neo che si lancia contro agente Smith e ci sono 50.000 telecamere e gli fa tutto il giro attorno, che mi ha folgorato. Cioè, quelli... come posso dire? Avere occasione di fare queste scene... ma anche nei libri, cioè avere occasione di creare delle situazioni per avere occasione di pensare a cose a cui non avessi mai pensato, non solamente perché sapio, ma anche perché è divertente, è una cosa, non lo so, mi è sempre piaciuta come cosa, non lo so. Ma Andrea il mutato cosa dice invece? Sei andato davvero? Andrea? Si è suicidato, va bene. E basta. Luca non mi ha detto niente invece. Dico una cosa sola perché poi la puntata diventa troppo lunga. Vabbè, ma è già bellissimo. Una sola motivazione. Sì, ma considera che è lunga la puntata, ma questa è in periodo di quarantena, quindi gli ascoltatori ci perdoneranno. Ah sì, ma che cazzo. È vero. No, credo che sia una cosa, tanto valgono tutte quello che hai detto voi, credo che a me piace comunque sentire una bella storia. Oh, che buonista. Ecco. Oh mio Dio, ma come, è il contrario di buonista. Che romantico! Ma non voleva essere questo, è il contrario. Devo dire, fanculo al sapio. Mi piace sentire, cioè mi piace leggere una bella storia, anche se non è se non c'ha sotto un parallelismo con la realtà, il nazismo, il... Israele. Ha detto la parola N, ha detto la N. che non è nigga, attenzione. Andrea. Si censura il nazismo? Sì. No, Andrea. È che Andrea non sopporta gli ebrei e i nazisti. È una cosa molto ma non è vero, cioè. Andrea odia tutti. Sì. È una cosa molto bella, no? Sì, soprattutto voi, però vabbè. Non è discorso. Ma tu perché ami la fantascienza, Andrea? Se la ami, se ti piace. Non ho niente da aggiungere alle vostre motivazioni. Non posso dire manco di avere ogni risposta è più buonista della successiva. Un tipo di fantascienza preferito, nel senso viaggi nel tempo vabbè, cose che avete detto. E tra l'altro è meraviglio che Odyssey abbia ancora citato. Esatto. Infatti me l'aspettavo. Ma allora volete fare un salto di 4 ore? Volete fare tipo la maratona per chi sta a casa? Merda, lo so, io adoro in generale, quindi... boh. Ancora le Dark, porca troia, mo comincio. Beh, Ritorno al futuro, stupido, comico, non lo so, può essere qualsiasi cosa. Ah, Alien, se me lo fate passare come fantascienza. A voi? Sì, certo. No, boh, in generale so... Vabbè. Io aggiungo anche, una cosa più Riddick buonista di Luca. Cioè per dire. Vai. Anche Riddick. Per non fare che Luca poi è quello più buonista, dico l'ultima cosa. La fantascienza è anche un buon esercizio per immedesimarti negli altri, secondo me, per sviluppare empatia e capacità di amare il tuo prossimo e non vederlo come un portatore di coronavirus. Madonna, che schifo. Boom! Questa è una cosa buonista, finalmente. Buonissimo ai tempi di coronavirus. Invece tu, Salla, perché ti piace? E comunque Matrix non abbia ancora detto... Cosa, Andrea, scusa? Niente. Comunque? Niente. Da dopo tanto possiamo ascoltare solamente il tuo audio nella traccia. Guarda che lo posso riprendere quando vuoi. Poi dopo lo riprenderai e posto. E no, mi meraviglio che Luca non abbia detto dottore. Dottore. Se chi? Vogliamo chiamarla fantascienza. No, scherzo. Dottore Holmes. Dottore... Dottore chi? Dottore chi? Chi? Beh, Salla è il virologo tra noi. Mm-hmm. Quindi? No? Quindi? No, io mi riferivo alla serie TV fantascienza della vita. Ah, scusa. Morte. No, non World War Z. Quella col dottore autistico. Non World War Z. Quella col dottore autistico. Sì, è uscita una serie tipo... Ah, The Good Doctor? The Good Doctor. Sì. Stai scherzando? Qua... Col dottore ritardato dovevi dire, Luca. Ho capito. Sì. Salla, però tu non risposto alla tua stessa domanda. Fai come Mazzullo. Io mi faccio le domande e mi do le risposte. No, fatti la domanda e la risposta, cazzo, adesso. Te la faccio io, se no. Allora, io... A me piace... a me non piace la fantascienza e non mi piacciono... No, nel senso non mi piacciono le robe di fantascienza con gli alieni che arrivano, gli alieni che vanno, gli alieni fanno questo. Tipo Star Trek mi piace, ma un po' non lo so. Ah, di guardare The Orville, di finirla. Invece The Orville mi piace, per esempio. Fanculo. Guardate Orville, comunque. E, mi piace invece quando... Mi piace appunto quella parola che ho usato prima, che non ripeterò perché c'è arrivata Roberta, non posso Roberta, Salla ha detto straniamento. E a me piace quello, mi piace... Per quello a me piace tantissimo Dick, perché alla fine è una costante il fatto che la tua prospettiva cambi continuamente. Soprattutto in Ubik, cazzo. Esatto, il tuo punto di vista cambia continuamente. E invece che dire che sono tutti buoni e sviluppi empatia, vedi invece che sono tutti delle merde. Ma sviluppi comunque empatia. Salla, è comunque buonista, è inutile. Non cioè... è buonista, è il contrario. Jacopo, mi dici che Salla... E no, e questo mi piace, cioè, il fatto di cambiare prospettiva mi piace tanto, perché mi mindfucka e io... Infatti Westworld è bellissimo. Perché ti fotte il cervello e tutti sono malvagi? Esatto, è perché è puro Dick. E, sì, le uniche persone buone sono persone morte, cioè sono esatto. Quelli morti. Esatto, e alcuni muoiono più volte. È vero. Oddio, non ci ho mai pensato. Eh sì, Dolores muore in tutti gli episodi. Molto Game of Thrones. Della prima stagione. Dolores. E è la protagonista e muore in tutti gli episodi, Andrea. Ma lo vedrai. Soppopera spagnola. Esatto. Quando sei Maria Dolores? No, non mi piace molto, non mi piace molto... non è che non mi piace molto le robe... Non è vero che non mi piace molto le robe degli alieni. Non mi piacciono molto le robe... nello spazio, troppo nello spazio, cioè nel senso se è una roba tipo come cazzo si chiama dai quella con Alec Baldwin lì, con... Alec Baldwin vabbè niente come? Perso. Se è una roba tipo Star Trek a me dà un po' fastidio perché appunto è ambientata soprattutto nello spazio, però continua a piacermi. Se è una roba tipo Gravity a me sta sul culo. Vabbè, ma quello non è fantascienza, è tipo un mezzo... No, è comunque... Gravity in effetti no, però tipo Interstellar mi sta sul culo. L'amore. Il potere dell'amore, Salla. Esatto. No, Però anche Interstellar c'ha dei lati positivi, secondo me, che derivano dalla fantascienza, tipo quella scena figata di loro che entrano nel wormhole. Donnie Darko. Secondo me, esatto, Donnie Darko è molto bello. Si assomiglia bellissimo, di più a Serenity, lì come cazzo si chiama, e Firefly, bravo. Cattiva esplorazione. Sì, ho appena detto una bestemmia, ma spero che nessuno... Raga, ho scritto la fantascienza. Cavolo, look at this. Sì. Si assomiglia in più a Firefly, invece mi piace. E invece i viaggi nel tempo, no. Soprattutto se i viaggi nel tempo sono, ma Jacopo lo sa benissimo, gli episodi in cui, che non sono viaggi nel tempo veri, in cui comincia con la fine. Io quelli non li sopporto. Io, cioè, mi viene proprio il rigurgito. Io non ce la posso fare. Quindi Butterfly Effect è il tuo film preferito. Esatto. Forse mi stai chiedendo come sono finito in questa situazione. Esattamente, io quelle cose non le sopporto. O anche se c'è... cosa, dimmi? Nella seconda di Titans mi sa che fanno spesso sto giochetto, no? Del flashback, vabbè, c'è, sì, più o meno volte c'è, sì. Mi pare, non lo so, però sì. Che, però, vabbè, fa schifo tanto. No, però per esempio Looper, che anche se c'è Bruce Willis, che è tipo uno dei miei attori preferiti, io non lo sopporto. Looper è un po' antipatico come film, sì. O Next, okay. Che è così. Che non lo reggo. Mamma mia, Next. Va bene, dai. Aspetta, ho un'ultima domanda, sì, per Roberta prima di chiudere. Robè. Dimmi tutto. Hai visto Blade Runner per oggi, per stasera? Sì. Oddio, non voglio fare la prossima domanda adesso. Ti è piaciuto? Silenzio imbarazzante. Io non lo sento, Roberto. No, il microfono si attiva. No, ha smesso di parlare. No, il microfono si attiva. Ma allora... Sta parlando. Tu dici quello nuovo o quello vecchio? Hai visto entrambi? Io quello vecchio l'avevo visto tempo fa. Ho visto quello nuovo... Too much, troppo lungo, troppo... A me non mi ha entusiasmato, veramente lungo. Ok, l'originale ti era piaciuto al tempo? Mi sembra di sì. Ok. Va bene, non voglio fare altre domande perché è bellissimo il secondo, quindi non voglio... Ma non ho visto il secondo, quanto è ispirato a qualcosa di già scritto? Zero. Molto poco. Sì. Ah, beh, allora potrei guardarlo. No, il secondo sono 3 ore di film, Salla, te lo dico. Porca troia, no, non lo posso dire. È lunghissimo, il secondo è effettivamente, ed è più una cosa visiva. Sì, no, per quello è bello, per carità, però io sono, per carità, mi piacciono i film lenti, però veramente troppo, 3 ore di film è cioè troppo. Jacopo, Roberta ha appena detto che questo film è troppo lento, cioè io non lo vedo mai. Infatti per quello non volevo fare altre domande, però perché... è vero, è un film lento, è vero, è una trama di merda, non è così, però secondo Salla, me... devi andare molto lontano, un buco nero, così il film... Ah, esatto. Esatto. Così cosa, scusa? Così il film finisce e posso tornare. Sara, ti dico solo una cosa che ti convincerà a vederlo definitivamente. Dimmi. C'è Jared Leto. è vero. Ah, quello è per me, è già nel senso, posto, no, mi convinto. C'è la gnocca di bla bla bla. No, però Villeneuve, cioè secondo me farà un bel Dune. Scusate raga, mi sono distratto un attimo leggendo, non è necessario riempire il carrello più di quanto faresti normalmente di un articolo danese. Quanto cazzo godo. Ma quindi sei il danese, sai? Fate una spesa netta. Va bene. E adesso sarà Mads Mikkelsen che farà la promozione su come evitare il coronavirus. No. Tra l'altro, ragazzi, Death Stranding è un videogioco sul vivere tutti in isolamento, riparati da... Quindi in questi giorni giocateci. Come? In questi giorni giocateci. giocare a Death Stranding c'è Mads Mikkelsen che... Ma no, in questi io. Giorni parlate con voi stessi. Sì. Voi ricoverate. Parlate con voi stessi e riconoscetevi. Riconoscete il vostro io, che è il vostro primo estraneo, come diceva Socrate. Come diceva Westworld. Esatto, guardatevi Westworld e poi... parlate con la vostra... Vedi, è molto filosofico questo, secondo me a Roberta potrebbe piacere. Ma infatti approfitterò di questi giorni sperando che la mia quarantena finisca, perché onestamente mi viene un po' l'ansia, sta a casa. Allora, prima di chiudere, comunicazione in servizio. Tutte le volte che Jacopo ha detto Death Stranding, questa puntata verranno bippate, quindi... Vaffanculo! E allora dico un'altra cosa, HBO farà il... Perché sono pigro. Va bene. Non lo faccio perché sono pigro, basta. No, ok, non lo fai perché... Allora non dico l'altra cosa. No, dillo. HBO sta facendo la serie su The Last of Us. Vabbè, pensavo peggio. Ah. No, vabbè, era per dire... Oddio. Cioè, che finora non ne hanno sbiata una, quindi si spera che anche quella sarà un adattamento interessante. Vabbè, va niente. Bene, ok. Noi vi ringraziamo. Scommesse e roba del genere? Non ci sono oggi? No, non ci sono oggi. Il cinema, cioè l'industria del cinema ha chiuso per tipo due mesi, quindi... anche perché noi adesso non andremo a vedere nulla, ma non è che prima vedessimo cose. Volevo andare a vedere Quiet Place 2, ma mi sa che non ci andrò, e quindi niente, faremo niente, un po' di episodi... tutto chiuso, ma il podcast non chiude. Andate ad ascoltare Focolare Elettrico pure. Ah, esatto, bravo, volevo fare una mini promozione anch'io, Focolare Elettrico, e tra l'altro ho sentito che ci sarà un ospite super esclusivo in una delle prossime puntate, forse due se l'altro si decide a partecipare, però una delle due sarà molto sapio, ve lo dico, quindi... Esatto. E basta, niente, e grazie di aver seguito questa puntata lunghissima. Ma sì, seguiteci ancora di più adesso che siete in quarantena. Esatto. E niente, grazie Luca. Di che, è stato un piacere. E noi ci vediamo, ci sentiamo settimana prossima. E buona quarantena a tutti. Adios. Ciao. Ciao.